Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E inizia a dire: ti prego no, ti prego no, ti prego non farmi sbattere. La ruota anteriore impatta con il bordo del marciapiede. C'è un colpo, poi un altro e la ruota dietro. Poi ritorno in mezzo. Un metro ancora e l'auto si ferma. Mi chiamo Emilio, abito a Bergamo e spendo un sacco di tempo sulla neve. Prima di cominciare con qualsiasi storia, poi la storia di oggi, che è la storia di Emilio, un appuntamento imprescindibile per tutti quelli che sono a Milano, per tutti quelli che amano il programma e per tutti quelli che lunedì hanno un po' di tempo alle 16, noi torniamo in diretta dal vivo al Pirelli Store di Milano in Corso Venezia numero 1 lunedì prossimo alle 16. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno raccontiamo una storia e lunedì prossimo racconteremo una storia in diretta dal vivo. Chi c'è già stato ad aprile, mi pare che fosse, era aprile, no Marghe, marzo, aprile, insomma chi c'è già stato l'altra volta se lo ricorda. Se veramente vi è piaciuto tantissimo potete tornarci, se l'avete mancato per tanto così potete venirci, se non vi va niente, siamo amici lo stesso, non succede nulla. Però alle 16 lunedì prossimo siamo in diretta dal Pirelli Store di Corso Venezia numero 1. Per venire vi prenotate molto facilmente, andate sul nostro sito radio24.it alla pagina di Voi Siete Qui e c'è un piccolo form da compilare perché non ci sono tantissimi posti, quindi venite, raggiungeteci alle 16 in punto. Raccontiamo storie legate al pallone questa volta, al calcio. Se quindi avete una storia da raccontare, se da ragazzini come mio papà eravate una grandissima ala destra, avevate fatto quasi il provino per la prosesto, no, per la propatria, per la propatria, è arrivata tanto così, tutte le volte che me lo dice, ragazzi, io ho fatto il problema per la propria, mi avevano anche preso poi il menisco. Insomma, storie, ce l'avete fatta, non ce l'avete fatta, storie legate al mondo del calcio, campi pieni di fango, pieni d'erba. Voi siete qui, chiocciolaradio24.it, la raccontiamo lunedì prossimo in diretta dal Pirelli Store di Corso Venezia numero 1 alle 16, come tutti i giorni. Ma torniamo noi, raccontiamo la storia di Emilio oggi. Questa è una storia particolare perché di solito una storia, lo chiediamo apposta, ha a che fare con un episodio, giusto? E quindi con un minuscolo viaggio, proprio un piccolo viaggio dell'eroe, un inizio, uno sviluppo e una fine, proprio super concentrato. Ero là, mi è successo questa ed è finita così. Queste sono più o meno le storie che vi chiediamo di mandarci, l'importante è che siano vostre e che vi siano accadute realmente e che siano appunto delle storie in cui accade qualche cosa. La storia di Emilio invece è una storia in cui sostanzialmente sembra che stia per accadere tutto e non accade proprio niente. La cosa, diciamo, comune di questa storia, che però comunque è bellissima, ha a che fare con quella vocina che voi sentite, magari anche adesso, dentro di voi, che vi dice no, non lo fare, non lo fare, lascia stare, non lo fare, e poi inevitabilmente lo fate. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, oppure c'è un profilo Facebook ovviamente che è sempre Voi Siete Qui Radio 24 e un profilo Twitter, il mio che è Matteo Caccia, oppure Voi Siete Qui R24. Benedetta scrive: aprire il frigorifero, non farlo, non farlo, e lo faccio sempre. Francesca: non farlo, non farlo, comprare e mangiare il salame. Pamela: provarci spudoratamente con il mio attuale fidanzato. Beh, Pamela, direi che è andata bene. Chiara scrive: me lo ripeto sempre, non lo fare, non lo fare, e poi invece mangio schifezze dalle macchinette, che sono diverse, sono di una categoria diversa dalle schifezze che ci sono in frigorifero. Non so perché, ma sono un'altra cosa. 349-238-6666. Non lo fare, non lo fare, non lo fare, e poi invece lo fai. La strada è ghiacciata, si scivola. Hai paura di scivolare. Hai paura di scivolare e di andare a sbattere con la macchina. E di fare un guaio. E di dover spendere un sacco di soldi per riparare il danno. E poi magari di fare anche un danno a qualcun altro, che non si sa mai quando c'è il ghiaccio. Si scivola. È pericoloso, allora vai piano. Fai tutta la strada che devi fare. Fai il bravo ragazzo. È andato tutto bene. Sei quasi arrivato. Bravo, dai. C'è l'ultima curva e poi ci sei. Poi sei arrivato. Vai piano, ma meno piano di prima, in curva. Senti il grip delle ruote che se ne va solo un po', ma è sotto controllo, tranquillo. Wow, che figo, divertente. Volevi solo vedere come andava. Rettilineo adesso, e poi c'è il parcheggio. Acceleri, ma cosa acceleri? La strada luccica, ci sono migliaia di puntini di ghiaccio che riflettono la luce dei lampioni e tu acceleri. perché acceleri? Perché? Lo sai che si scivola. E poi tu acceleri. E freni. Di colpo. Bruscamente. Senza senso. Le ruote sono bloccate. La macchina se ne va di lato. Ma non come hai visto fare Ken Block in quella gymkhana, in quei video su internet. Non è una cosa divertente. La macchina se ne va di lato come una saponetta bagnata sul bordo di un bidet. Allora, io ho dimestichezza con le strade innevate, le strade ghiacciate, e ce n'ho anche troppa, e quindi devo cercare di fare le cose sensatamente, soprattutto perché sulle strade non si circola da soli, quindi se uno proprio vuole divertirsi ci sono dei grandi piazzali vuoti, è meglio usare quelli. Senti, sotto il piede destro nella gamba l'ABS che lavora, che sgrana, che si contorce, che soffre come un galletto dentro a un sacco di tela e che si dibatte e mena colpi, senza sapere dove, a chi e perché. Pattini senza peso nel parcheggio al volante della macchina, la macchina di tuo padre. Vai di lato, inesorabilmente verso un muretto, inizi a dire ti prego no, ti prego no, ti prego no, no, non farmi sbattere. E chi è che preghi, imbecille? Hai fatto tutto da solo. La ruota anteriore impatta con il bordo del marciapiede, c'è un colpo, poi un altro, la ruota dietro, poi ritorno in mezzo, un metro ancora e l'auto si ferma. Ci sono tutte le luci accese adesso sul cruscotto che lampeggiano. E c'è anche la luce nell'abitacolo. Dici, porca puttana, porca puttana, porca. Poi dici, sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione. E dai anche i pugni sulla testa, sulle orecchie, digrigni i denti, sei isterico. Poi respiri dal naso, apri la portiera e scendi. Sei in piedi in mezzo al parcheggio come il capitano di una nave, con un piede a terra e un ginocchio ripiegato sul sedile di guida. Una mano ancora attaccata al volante. Ti guardi intorno. Il parcheggio è vuoto, è sera. Non c'è nessuno in giro, non ti ha visto nessuno, forse. Guardi la carrozzeria, davanti, niente. Guardi meglio, niente. Non è successo niente. La macchina di mio papà era una vecchia Peugeot 305, ci teneva parecchio, soprattutto perché la macchina la usava per andare a lavorare, non è che fosse un fan della Peugeot 305, ma la usava per lavorare. Non è possibile, c'è stato quel colpo. Giri intorno alla portiera, ti avvicini al pneumatico e alla ruota anteriore. Non sembra sia successo davvero niente. Anche al cerchio, niente. C'è solo quella riga di fango marrone sulla spalla del pneumatico. Ti sputi sulla punta delle dita e cerchi di pulirla, la riga di fango, sfregando con le mani sulla gomma. Ma sei scemo. Risali in auto, riaccendi il motore, fai 3 metri e parcheggi, spegni il motore e chiudi. C'è quel tut tut dell'antifurto, la luce gialla delle 4 frecce che riempie il buio. Dai un'occhiata anche alla ruota dietro. Niente. Cammini veloce rasente al muro. Respingi la tentazione di correre fino al portone. Suona il campanello di casa dei tuoi, facendo il solito squillo di famiglia. I 2 colpetti brevi. Gh, gh. Si apre il portone e sali 3 rampe di scale. Entri in casa. C'è un bel caldino dentro, profumo di risotto. Tua mamma è di là in cucina, ti sente entrare dalla porta e ti saluta. La vedi di spalla ai fornelli. Chiede, tutto bene? Tu rispondi, tutto bene. Ti stai levando la sciarpa e la stai appendendo all'attaccapanni. Ti ricordi di quando rientravi da scuola e ti chiedevano com'è andata? E tu rispondevi nello stesso modo, sempre tutto bene, sempre. Tua mamma ti chiede, com'erano le strade? Ero preoccupata. Tu rispondi, tranquilla, tutto bene. Basta non fare stronzate. Ecco, appunto. If you happen to read this, Rose was born child actress on the 5th day of the snow. Be good or be gone. Be good or be gone. Basta non fare stronzate è decisamente la chiave di lettura del racconto di Emilio. Tutto può andare bene nella vita, da cucinare una pasta fino a camminare su un cavo teso a 100 metri di altezza, se lo sai fare. Basta non farle quelle stronzate. Il suo racconto parla di questo e parla di auto. E mi è venuto in mente un episodio di qualche anno fa in cui a me non andò bene come a lui. O meglio, mi andò benissimo, altrimenti non sarei qui a raccontarlo. Ma ne uscii un po' più segnato. Mi trovo in Sicilia a trovare la mia fidanzata che non vedo da settimane. Sono felice e non vedo l'ora di stare con lei. Atterro a Palermo perché lei si trova lì, ma la sera stessa dobbiamo andare a Catania, che dista 200 chilometri e attraversa il cuore scuro della Sicilia, scuro soprattutto se lo percorri con una vecchia Opel Corsa di notte, dopo aver fatto tardi, e in auto, oltre a lei e a te, c'è pure la sorella. Un po' come in quel vecchio film con Chevy Chase, non so se lo ricordate, quello in cui porta la famiglia al parco giochi che si trova in mezzo agli Stati Uniti e gliene succedono di tutti i colori. E tra le altre cose, a un certo punto la scena proprio fa vedere che la sorella si addormenta, lei si addormenta e io non mi addormento, ma diciamo che tengo gli occhi chiusi per un po' troppo tempo, considerato che sto guidando. Siamo dalle parti di Enna, quando percepisco un rumore lieve, rapido, proveniente dalla parte destra dell'auto, un tuc, leggero ma molto netto. Guardo la strada e sono esattamente nel mezzo della carreggiata, con l'autostrada deserta, nessuno si sveglia tranne me, oserei dire, e l'auto procede tranquilla, più o meno a 80-90 all'ora. Per capire cosa è successo, accosto ad una piazzola di sosta, scendo, guardo la fiancata. È buio, è vero, ma non c'è nulla, la gomma è intatta, la portiera anche. Io torno dalla mia parte, risalgo e riparto. Tutto è andato bene, non è successo niente. Arriviamo a Catania dopo un paio d'ore, saranno le 4 del mattino, e dobbiamo scaricare la sorella in via Etnea. Ma quando la mia ragazza cerca di scendere, la portiera non si apre. La spinge, ma niente, non riesce ad aprirla. Cerco di aiutarla da fuori e mi rendo conto che anche se non è rigata o segnata, la lamiera della portiera è completamente rientrata e impedisce la porta di girare sulle cerniere. Sì, il colpo c'è stato. Era stato contro il guardrail e sì, io mi ero addormentato e sì, siamo stati miracolati, ma soprattutto basta non fare stronzate. I woke up this morning August 3rd. It's been pretty slow and uneventful. So we went to visit a friend in Santa Fe, went to New Orleans and went to see my family. Woke up this morning and it occurred I needed one more track to finish up. But I was feeling out of fuel and uninspired. Laid in my bed too long, a little down, a little tired. Met my girl and we walked down Union Street. I was scattered and my head was in a bunch of places. Bought a $350 pair of lampshades and we ate at Berries and I ordered crab cakes. Bello come al solito, con un casco in testa da sci, degli occhiali ovviamente, degli occhiali no, una maschera da sci in testa, nevica intorno a lui, ci sono proprio dei pirulini, non si dice pirulini, scusa Margherita, dei fiocchi di neve, che sono talmente piccoli che sembrano pirulini, lui ha la barba un po' incolta e guarda dritto davanti all'obiettivo, davanti a sé, la foto ovviamente è in bianco e nero. Qualcuno se lo ricorda perché è stato di recente sul Nanga Parbat insieme a Simone Moro a raccontare la storia di quell'ascesa che non è riuscita in realtà in inverno. Qualcun altro invece, probabilmente gli ascoltatori di questo programma, se lo ricordano perché era l'uomo che a 17 anni passò il Natale nel letto con due donne. Lui è Emilio Previtali. Emilio, buongiorno. Buongiorno, ciao. Come stai? Bene, benissimo, grazie. Come ti piace di più essere ricordato, Emilio? Come un alpinista o come uno che passò il Natale, il giorno di Natale con due ragazze? Meglio alpinista forse. Lo chiediamo a tua moglie magari. Meglio non chiedergli. Emilio, la Peugeot 305, scusami, era quella un po' oblunga? Era quella Station Wagon? No, quella 306. C'era anche Station Wagon, quella che dico io, era una berlina, non era una delle macchine più brutte del mondo, però insomma erano le macchine. È vero, devo dire che la 305 non era un granché, mai avuto nulla a che fare con la Duna o con la o con l'altra, qual era l'Alfa Romeo, quella proprio brutta. L'Arna, bravissimo, anche l'Arna non scherzava, però diciamo che le auto francesi. Emilio, quante volte... Questo chiaramente è un racconto di un episodio, però insomma si vede dai messaggi che arrivano, è chiaramente una metafora, no? Nel senso che racconta mica solo sul scivolare sul ghiaccio, ci si dice no, non farlo. Ti capita spesso, sei uno controllato anche col mestiere che fai, no? Il fatto che spesso sei in zone pericolose, vabbè, insomma tu dirai di no adesso, però uno che fa l'alpinista comunque ha a che fare con il pericolo. Sei uno che si controlla o sei uno che invece si lascia raccontare quella storia da quella vocina? Dipende un po' dai casi, se si diventa pericoloso per te o per gli altri magari cerco di stare sicuramente più attento, però credo che quando diciamo c'è solo il pericolo di sbattere vale la pena magari di qualche tentativo farlo, perché bisogna un po' spaventarsi, secondo me, per non fare le stronzate, quelle grosse. Quindi è meglio farne tante piccole che una molto grossa, almeno è la mia teoria, poi non so se non è male come linea di principio. In montagna ti è capitato di farle di vaccate grosse, oppure sei sempre stato misurato? È impossibile che in una vita uno che va in montagna praticamente 100, quanti giorni all'anno stai in montagna? 100 o 150? Di più, sicuramente di più, perché fra sciare e montagna molti di più. Diciamo che in montagna, se sei sul tuo limite, se sei in difficoltà, devi sicuramente, è un ambiente serio e difficile, devi stare attento. Capita, ecco, quello che capita è di fare una stronzata, e poi purtroppo gli errori veri nascono quando da una piccola se ne fa una più grande e poi una più grande. Cioè, gli errori avalanga solito, proprio. Esatto, l'effetto cascata, e bisogna starsi attenti, ed è per quello che, quando diciamo il rischio è tutto sommato controllabile, secondo me vale la pena di fare un tentativo giusto per vedere come si potrebbe recuperare, ecco. Diciamo, questo non sta proprio alla base dei crismi della sicurezza di montagna, quello che ci racconti. No, però è diciamo una buona palestra, credo che gli esperimenti li hanno fatti tutti, anche gli alpinisti. Questo fine settimana sono stato a Trento per il Film Festival di Trento sulla montagna, che è un festival bellissimo e che c'è ormai tipo alla 60 e passa edizione. So che ci sei stato anche tu, che hai fatto una cosa con Messner che è stata molto molto bella. Ho incontrato questo atleta che tra l'altro appartiene alla tua squadra, insomma North Face, che è Alex Honnold, che è un ragazzo, per chi non lo conoscesse, io fino a 10 giorni fa, è un ragazzo che si arrampica senza corda. Tu lo conosci ovviamente, Emilio. Sì, lo conosco bene. Ecco, guardare un suo video, magari lo posto sul profilo Facebook più tardi, perché a proposito di non fare stronzate, questo ragazzo è un ragazzo che è vero che si prepara tutta la via, no? Cioè, correggimi se sbaglio, si arrampica prima con le corde, pulisce la via per evitare che si stacchino pezzi, toglie l'erba, bla bla bla. Però poi questo fa 300-400 metri di salita senza le corde. E i video che ci sono in giro e che adesso posterò in tempo zero, per dirti, la mia fidanzata non riesce a guardarli, proprio non ce la fa. In quel caso, quando uno arrampica e quando uno lo fa in quel modo lì, non esiste questa teoria, giusto? Del proviamo fino a che va. No, lì non si può proprio sbagliare, e diciamo che, ecco, nell'ottica delle cose che abbiamo detto prima, la prima cosa da dire è che lui non fa soltanto quello, lui fa quello è un, diciamo, è il vertice della piramide, e ogni tanto, quando si sente, quando sta bene, quando crede che sia la cosa giusta da fare, fa anche quelle cose lì. Però tutto quello che fa prima, si prepara, si allena, studia, e questo è importante da dire anche a un ragazzino che facciamo che arrampicare è difficile, ma magari buttarsi di sotto con un paio di sci, ecco, anche quelli che vediamo nei video, non è che improvvisano e si lanciano così dove capita, hanno sempre un'idea precisa di dove vanno, sono atleti, si preparano, e quindi dietro un po' di follia c'è sempre un po' di studio, qualche stronzata piccola magari, però ecco, è importante farle poco alla volta forse. Emilio, noi ci vediamo a Milano a fine maggio, è un appuntamento che dirò più avanti, quindi adesso io ti lascio andare. Il prossimo progetto qual è? Dove vai? Cosa vai a raccontare? Adesso il mio progetto è quello di allenarmi bene ed essere pronto a settembre per fare qualcosa che ha a che fare con l'endurance e la montagna insieme. Va bene, Emilio, grazie ancora, ci sentiamo presto, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Emilio Previtali, se volete sapere qualcosa di lui, andate a cercarlo, trovate un sacco di roba su quello che fa e soprattutto su quello che scrive. Prima di chiudere, io voglio ricordarvi che lunedì prossimo alle 16 in punto siamo in diretta dal Pirelli Store di Corso Venezia numero 1 a Milano. È gratis, raccontiamo storie di calcio, se avete voglia di inviarcela. Voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia semplicemente di venire a sentire, di fare quattro chiacchiere, noi siamo lì da prima e ci fermiamo lì. Insomma, l'altra volta siamo rimasti lì anche un po' dopo a chiacchierare con i presenti. Lunedì 12 di maggio alle 16. Bisogna compilare. Margherita mi fa dei segni che non capisco. Aspetta, che schiaccia l'interfono così capisco cosa dice. Grazie Filippo. I racconti, certo. Scusami, secondo te questo gesto sono i racconti. Se volete inviare i racconti, voi siete qui, @radio24.it. Ma compilate il form per partecipare lunedì prossimo, andate sul nostro sito, radio24.it, alla nostra pagina. Voi siete qui, c'è scritto Pirelli, voi ci cliccate sopra e vi iscrivete. Grazie mille a Filippo Aureggi, che è stato al mixer dall'altra parte oggi, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Emilio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gregorio, abito a Genova, la storia di domani è la mia e parla di adolescenti al mare. Questa è la mia storia e io sono qui.